Quanta femmina vanno a domandare, quanta notte gelosa mi rinde, ma da nera la volta perché sapevo così, come scarfo fuori un fuoco ma da lei. E triste sulla malattia, aspetta appena casa asciutto viene. O tempo va se bene, sembra la primavera, e tu sei più contenta. Io non avevo un'arma. Cioè, dico, come faccio? Aveva una rivoltella quella là, che si mette nei proiettili, come si chiama? Bindere, quella rotella. Allora un ragazzo dice, la vuoi l'arma? Senti, dammela. Ciao a tutte, tutti, tutto, buona liberazione, buon 25 aprile. Siamo alla terza puntata delle scappate di casa. Oggi ci teniamo a dirlo, non è la festa delle liberazioni così lanciate un po' a caso, ma è la liberazione dal nazifascismo a cui sempre ci opporremo. La puntata di oggi nasce come appunto la volontà di ricordare le partigiane di ieri e la pratica delle antifasciste di oggi. Un pensiero particolare sicuramente a tutte le donne che hanno fatto la resistenza, ai femminili, donne che hanno lottato non solo contro il fascismo, ma anche contro il sessismo, il maschilismo di cui quell'epoca non solo era intrisa. Sono tantissime di fatti le partigiane, le donne che vennero arrestate, torturate, le donne appartenenti ai gruppi di difesa, quelle fucilate. E anche se spesso non vengono raccontate dalle narrazioni principali, sappiamo che il protagonismo femminile era molto diffuso, con o senza armi. Le donne non si limitarono a ruoli di assistenza, ma parteciparono all'elaborazione politica, in vista, anche del dopo, di un futuro, migliore. Partiamo con la nostra prima inviata e la nostra cara scappata di casa Demetra, che oggi ha raggiunto Nella, la figlia di Maddalena Cerasuolo. È una intervista molto bella sulla figura di questa grande partigiana napoletana, a cui dobbiamo ancora oggi l'esistenza del Ponte, della Sanità, che Lenuccia, difese al fianco del padre, dei partigiani e delle partigiane di Mater Dei, del quartiere Stella e della Sanità. C'è da dire che a Napoli la liberazione è avvenuta prima. Napoli il 30 settembre del 43 già aveva cacciato le truppe nazifasciste e prima, ancora dell'arrivo degli alleati, Napoli era libera. Donna Lenuccia, come ci dirà anche Nella, quei giorni li aveva vissuti, li ha vissuti da partigiana, in difesa della sua terra, della sua gente. E come sentiremo, Lenuccia, appunto, difese la fabbrica a Mater Dei dalle razzie tedesche, parlò faccia a faccia con il nemico. E anche a Napoli, Lenuccia non è stata l'unica ad imbracciare il fucile, a combattere, a resistere. Questo per dire che comunque anche nelle quattro giornate di Napoli sono tante le donne protagoniste. E come ci ricorda la stessa Maddalena Cerasuolo, di cui abbiamo sentito anche la voce nell'intro, senza sosta combattemmo con armi vere e improvvisate per 4 giorni e 4 notti, dal 27 al 30 settembre del 43. E la resistenza partigiana era partita da un insopportabile dolore della perdita dei propri cari, dell'assenza di libertà. Lenuccia ci parla della perdita di Gennarino, della rabbia diffusa, di quel sentire il sangue nelle vene. Ed è proprio a partire da questo che insomma si decise di combattere, e proprio perché diciamo, no, non c'erano altre possibilità. C'era l'esigenza di combattere fino all'ultimo sangue per dire basta al fascismo, al nazismo e per la unanime volontà diciamo, di presa di libertà. A noi oggi va l'obbligo di rendere viva la memoria, questa memoria, e sicuramente di rifiutare e resistere a ogni fascismo di ieri e di oggi. Ringraziamo Demetra, ringraziamo Nella e ce le ascoltiamo. Salve, buonasera scappate di casa. Stasera siamo con una nostra carissima compagna, Nella, che ci saluta. Ciao, ciao a tutte. Nella, se siamo tutte quante sicuramente figlie di Lenuccia, lei lo è un po' più di noi, particolarmente, vero? Sì, sono la figlia naturale di Lenuccia. La figlia naturale è anche la figlia che ne ha, diciamo, raccolto la memoria e scritto e quindi tramandato a tantissimi, che non l'hanno potuta conoscere direttamente, ne ha, ha tramandato, diciamo, la sua figura, no? Il suo esempio attraverso questo libro bellissimo che io adesso ho qui nelle mani, tra le mie mani, e forse, diciamo, comincerei proprio, se sei d'accordo, Nella, leggendo un brano dal tuo libro, che si... Sì, certo, vai. Vado? E poi dopo tu magari ce lo contestualizzi, ce lo racconti. Correvamo tutti verso il ponte. All'angolo di Via Stella incrociai un amico di papà, un macellaio che correva con indosso il camice bianco macchiato di sangue e stringeva una pistola per mano. Castellà, dove stanno papà e gli altri? Gli urlai. Si sono appostati prima del ponte, facimmo press, disse. Hanno già messo le cariche. Raggiunsi l'emiciclo prima del ponte e vidi papà steso a terra. Mi allungai accanto. Il monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale ci faceva da riparo. Gli mostrai il fucile. Che devo fare? È carico? Mi chiese. Sì, è carico. Me lo fece imbracciare in modo corretto e poi mi disse: spara quando lo dico io. Intanto i guastatori tedeschi avevano già innescate le mine, collocandole in un tombino che si trovava al centro del ponte. Si accorsero che degli armati correvano verso di loro e si ritrassero, aprendo il fuoco. In quel momento papà disse: Lenù, spara! Il rinculo del fucile mi spinse con violenza la testa all'indietro. Aka la capa! L'urlo mi arrivò nel preciso momento in cui il comandante tedesco cadeva colpito a morte. Non penso che fui io a ucciderlo, ma il dubbio mi rimase per parecchio tempo. Ecco, Nella, queste sono le parole che tu hai scritto, che sicuramente hai sentito, diciamo, tante volte dire a tua madre, no? Lei ti ha raccontato la sua vita come se fosse una vita normale, come tutte le mamme raccontano e parlano della loro giovinezza ai figli, solo che la vita di tua madre conteneva qualcosa di veramente straordinario. Era come tutte le mamme naturalmente, però questa storia usciva fuori dalla normalità sicuramente. Diciamo che ero orgogliosa di mamma quando lo sentivo, anche perché io la seguivo nelle varie manifestazioni, sentivo, cioè, vedevo con i miei occhi che comunque non era una mamma normale, potevo constatarlo questo. L'unica cosa che diciamo che mi dava fastidio, un po' fastidio me l'ha dato nei primi anni di età, perché lei qualsiasi cosa si parlava, si faceva, dovevi vedere ai miei tempi, io quando ho preso il fucile, quando sono andata a lei di continuo mi marcava questa cosa. beh, Diciamo, c'era un giustamente. po' ostica la cosa. Sì, diciamo sempre questo. Io osavo dire all'epoca, usavo dire, no, osavo dire, e qua mangiamo pane, pane 4 giornate in questa casa. È un Ebbene, sì. po' come penso che tutti i figli che abbiano avuto delle mamme che sono un po' sopra le righe, un po' famose per un motivo o per un altro, diciamo, è così, penso. Perché si Certo. parlava solo di quello. Ma poi Assolutamente. non ultimo, mio papà era partigiano, invariabilmente poi si andava a finire alle geste di mio padre, era stato anche lui partigiano, poi si passava alle geste di mio nonno e poi si passava a quello che era successo e quindi era un continuo, un continuo. Continuo a stare immersi dentro una dimensione di resistenza e di Sì, lotta. sì. cuore che aveva così grande, certamente la morte di Gennarino o le scene a cui ha assistito non erano passate, diciamo, indegne su di lei. Non so, cioè, lei vedeva un film, scusami, dico solo questo, sì, vai, lei vedeva un film di violenza, scappava, chiudeva gli occhi, non voleva vederli. Certo. Quindi questa cosa l'aveva molto colpita. Molto traumatizzata, giustamente. Traumatizzata, giusta la parola, giusta. Una cosa non voleva raccontare, non ci ha raccontato, noi le abbiamo scoperto dopo tante cose, un poco domandando in giro, un poco agli enti preposti. Allora lei, quando si parlava del suo agire come... dico spia, perché comunque di quello si tratta, lei non raccontava, non voleva, noi lo sapevamo quello che aveva fatto a sommi capi, però quando entravamo nei particolari lei non lo voleva dire, e poi diceva spesso: se tornano i fascisti mi fucilano. Ecco, vedi, c'ha ragione, lei è rimasta giusta, ma io trovo questo atteggiamento, diciamo, molto naturale, cioè questa infatti lo vediamo, diciamo, è anche un po' quello che noi cerchiamo di fare in questo momento con questa intervista, che tu hai cercato di fare e ci sei riuscita, secondo me, benissimo con questo libro, cioè far capire che il fascismo non è un fatto storico chiuso nell'ambito di quei 20 anni in cui, diciamo, si è realizzato come fatto storico istituzionale nella sua forma più assoluta e completa, ma che il fascismo purtroppo è, diciamo, non è mai stato sconfitto, è una dimensione, no? Che minaccia il nostro quotidiano continuamente, e quindi quindi c'è sempre un'attualità, diciamo, dei nostri nemici che ci accerchiano sempre continuamente, purtroppo. Certo, sicuramente certo. In questi tempi che bui, in cui c'è sicuramente la necessità molto bui. Una resistenza. Allora, devo dire che a volte temo anch'io, temo questo ritorno. Ci sono le basi, ci sono. Madalena piglia vive come bene e conosce te dormire guardie, non ha mai lasciata casa, ma ti spiego come sa. Madalena parla pure americana, mille volte mamma è stata Madalena, sapo leggere pensiere vista solo, non è mai stata a scuola, ma ti cerca consiglia. Quanti cose Maddalena camparà. Si ti parla quando stai a muore, mondo parca. Ok, allora l'episodio del ponte, in effetti mamma quella mattina era uscita in cerca di armi e aveva chiesto il permesso al papà. Il papà prima aveva detto di no, ma siccome mamma insisteva, perché per il motivo che ho già descritto nel libro lei voleva stare accanto al padre, comunque era uscito con un suo amico a Indima a cercare le armi, le aveva ottenute, inutile che il racconto perché altrimenti allunghiamo la cosa. E lei di ritorno dalla cerca di queste armi, dalla ricerca di queste armi, all'altezza di Santa Teresa aveva sentito un vecchio che diceva, che rispondeva a una camion, a un sidecar dove stavano due tedeschi sopra, che questi chiesero dove stava il ponte della sanità, e lui il vecchietto disse non lo so, questo è impossibile, lo sapeva, però aveva sospettato la cosa. E siccome cioè non è che si pensava, si supponeva che potessero fare una cosa del genere, i partigiani che già si erano organizzati, che non è vero che le quattro giornate nacquero così dal momento a un altro, no? Mm-hmm. Loro in effetti stavano cercando armi da dopo l'armistizio, capirono che stavano andando proprio come devo dire, nel pericolo proprio reale. minacciate di dover difendere la città. Quindi avevano già avuto la notizia che i tedeschi volevano radere al suolo, volevano non radere al suolo, rendere Napoli cenere e fango, e questo non è certo, non è scritto sui libri di storia, però è una notizia che è sempre girata in casa mia e quindi io ci credo a questo. Allora, questa cosa, un fascista che... pentito, dico io, no? Perché fino a quando, vabbè, facevano quelle belle cose, ma poi a sentire che volevano addirittura distruggere la sua città con la famiglia, con i suoi familiari, con le persone che amava, insomma, in effetti divulgò sta cosa. Ma non so se fu, diciamo, un fatto personale di questa persona che parlò o se lo disse a qualcun altro, certo è che questa voce arrivò. Sì. E adesso sappiamo che è vero, perché Hitler aveva dato l'ordine di rendere Napoli cenere e fango. Quindi i partigiani della zona praticamente si unirono, le persone della zona scelsero un capo partigiano, insomma si organizzarono. Nel quartiere mio nonno comunque fu scelto lui, insomma, perché ci aveva un po' di esperienza in merito, eccetera, eccetera. Quindi mia mamma, quando ha sentito questa cosa, ha subito immaginato, oddio, sta nominando il ponte, voglio nominare il ponte. E infatti lei stava correndo a cercare il papà. E infatti quando poi trovò il famoso vide, c'era un movimento sul ponte, evidentemente la notizia già era arrivata, corse pure lei, andò sul ponte. Quindi lei stava venendo dalla ricerca delle armi. Sì, lei aveva trovato questi due fucili e il maresciallo le aveva detto: guarda, il fucile è più alto di te, come fai? Così. Certo, però quando andò lì, lei fece, allora il maresciallo la mandò, non so se lo sa, Bicotrone, a portare la resa ai tedeschi che si erano asserragliati nella fabbrica di scarpe. E poi i due fucili furono proprio la ricompensa di questo. Il premio di questa azione che lei fece, che lì non morì proprio perché non doveva morire. Perché portò la resa a due tedeschi asserragliati, là, con una pezza in bianco in mano, portò questo biglietto di resa e quelli la cacciarono via, ma penso che fu fortunata perché poteva essere anche ammazzata lì sul selciato, insomma, da. Certo. E quando poi riuscì, poi poco dopo, non so perché, se si arresero per la ragione del biglietto che aveva portato, oppure perché già avevano pensato, qua ce la vediamo brutta con tutti i partigiani che stavano sparando intorno, comunque loro scapparono per il dietro della fabbrica. Del retro della fabbrica. Sul retro della fabbrica, sì. E quindi poi lei ebbe l'intuizione di capire che i tedeschi si cercavano il ponte perché volevano minarlo, e diciamo che se l'avessero minato, probabilmente veramente la storia di, almeno la storia di Napoli sarebbe stata diversa, perché sarebbe crollato il collegamento, diciamo, con la campagna, quindi con la possibilità di approvvigionarsi. Anche molti che ci sarebbero stati, sarebbe stato proprio un'ecatombe, ma diciamo così, ma il fatto che lì passano ancora le condutture dell'acqua, del gas, della luce, quindi sarebbe stato un macello. Certo. Sotto il ponte passano ancora oggi, passano queste cose. Era assolutamente un punto strategico, non è che i nazisti l'avevano scelto a caso. Certo. E vogliamo dire adesso questo ponte come si chiama? Questo è il mio orgoglio, devo dire, a parte l'orgoglio per tutti i napoletani, si chiama Ponte Maddalena Cerasuolo. Alla mattina appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Alla mattina appena alzata, in risaia mi tocca andare, e fra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E fra gli insetti e le zanzare, duro lavoro mi tocca fare. Il capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Il capo in piedi col suo bastone, e noi curve a lavorare. Poi cara, ti volevo dire una cosa, tu hai giustamente rievocato anche la morte di Gennarino, no? Di Gennarino Capuzzo, che era il cugino di tua madre. Sì, cugino di primo grado, che addirittura conviveva con loro, che mio zio e mia zia abitavano con, in quel periodo abitavano in casa di mia madre. E qui nel tuo libro, secondo me, anche questa, diciamo, questa pagina veramente tragica, no? A me piace molto tu come l'hai resa, e volevo leggerla anche questa, anche per, diciamo, dedicare un pensiero a Gennarino. E poi mi piace tantissimo tu come l'hai scritta. Qualche secondo dopo arrivò la cannonata, quella che ammazzò 9 persone sul terrazzo. Papà mi buttò a terra coprendomi col suo corpo, ma ci rialzammo subito. Dove ha colpito? Chiesi. Qualcuno gridò: il terrazzo. Mamma mia, Gennarino, urlai. Salendo su mi scontrai con mio cugino Vincenzo che barcollava. Stai bene? Dove sta Gennarino? Gli chiesi strattonandolo. Non lo so, rispose. Aveva tutti vestiti a brandelli, c'era tanto fumo e vidi diversi corpi riversi, ma io cercavo Gennarino. Sperai con tutto il cuore che non ci fosse, che magari ci avesse ascoltato. Invece lo trovammo all'ingresso del terrazzo. Era lì con le gambe nude divaricate, era l'unico a portare i pantaloncini corti. Gennari, Gennari, urlai, sperai che fosse svenuto per lo spostamento d'aria. Lo amala a cancop, fece mio padre, intuendo quello che era successo. Se lo caricò sulle spalle e lo portammo a casa nostra. È morto, urlò mamma quando ci vide. Lo mettemmo sul letto, il corpicino era intatto, tranne che all'altezza del collo. Una scheggia gli aveva reciso la vena aorta. Gli misi un fazzoletto intorno alla ferita, gli pulì il viso e gli aggiustai i capelli. Pareva dormisse. La porta si spalancò. Guinella entrò come una furia, la madre. Aveva il viso sconvolto, guardò il figlio, poi tutti noi. Mi aspettavo urla, pianto, e invece parlò col bambino come se fosse vivo. Te l'avevo detto in una scima, tu niente, sai che ti dico? Moa votamma capo cavalle, vavatten. Parole assurde in una situazione così tragica, ma le cose erano talmente illogiche che quelle parole folli mi sembrarono quasi sagge. Si sedette sul bordo del letto e non disse più niente. Ecco, è una cosa tremenda, ma struggente anche nel modo in cui tu l'hai raccontata. Devo dire due cose. La mamma, così, perché poverina era andata in giro tutta la mattina a cercare il figlio e non l'aveva trovato. Gennarino fu la molla per cui mia mamma dopo non tornò a casa, non volle tornare a casa, perché quella morte del suo cugino, come ti devo dire, il suo fratellino, perché era un fratellino, non era un cugino, l'aveva molto sconvolta, molto, e lei voleva fare ancora qualcosa, ma se si, non lo so, se si volesse vendicare di questa cosa così atroce che era capitata a loro proprio, certo. Proprio in famiglia, perché questa cosa poi, il dolore non è mai passato di questa morte. Si parlava sempre di questo bambino, ma ancora con dolore. E ancora adesso si parla con dolore. Cioè, mia zia Rosaria, che era piccola all'epoca, giocava sempre con lui e lo nomina sempre, se fosse vivo Gennarino. Quindi non era una presenza, diciamo così, casuale in casa di mia mamma, no. Era come un fratello, come... E quindi questa cosa la portò a maturare l'intento poi di fare ancora qualcosa per liberare l'Italia da questo orrore, da questa atrocità che continua, che facevano i nazifascisti, i fascisti, i tedeschi, insomma. Perciò andò a nord, perciò poi quando fu contattato dai servizi segreti inglesi le accettò, proprio per questa ragione. Questo me l'ha detto, non è che è un pensiero mio, me lo disse, perché hai fatto questo dopo? Potevi benissimo ritirarti, diciamo come fecero tutti gli altri partigiani. E lei no, e mi spiego questa cosa, la morte di Gennarino non poteva restare così. Certo, certo, bellissimo, le aveva dato, diciamo, una motivazione per non tornare a casa. Sì. Per continuare perché la lotta. Lei sapeva, tornando a casa non era ancora finita, stavano ancora là. Ancora in Italia, ancora... Infatti ci sono stati fino al 45, queste cose sono successe a noi nel 43, ma là a nord se l'hanno vista brutta fino al 45, Sì, e quindi questa è una parte della vita di Lenuccia che pochi conoscono, il fatto che appunto lei poi ha continuato la sua azione. Sì, sì, c'è proprio un capitolo, Montecassino e Genova, l'epilogo, in cui tu dici anche, non so perché, ma lei di queste cose non ne voleva parlare, aveva ancora, diciamo, la paura. Sì, ci ha raccontato ben poco, l'abbiamo saputo dopo. Certo, una storia estremamente complessa, dove nella storia, diciamo, sua di donna e di compagna napoletana, la sua vita viene attraversata, no, da più piani. Anche, diciamo, c'è questo piano che appartiene proprio alla storia, diciamo, internazionale, proprio della seconda guerra mondiale. Poi c'è un piano che ci riguarda di più sicuramente come compagne e come donne, che è il suo impegno concreto, che poi nella lotta partigiana qui a Napoli, però c'è sullo sfondo anche, diciamo, quest'altra vicenda. C'è un attestato di benemerenza rilasciato alla fine della guerra dai servizi segreti inglesi. Mm-hmm. Adesso dopo 70 anni poi abbiamo anche saputo che cosa fece, che cosa è successo. Infatti lì è uscito che lei ha rischiato di essere messa al muro, poi abbiamo collegato alcune, io e i miei fratelli, poi abbiamo fatto questo lavoro di ricostruzione, che era stata fermata, ha rischiato di essere messa a morte, perché poi l'episodio dello zio, che io racconto sempre in questo appendice della guerra di mamma, da lei era stato raccontato questo. Questo lo sapevamo, di questo zio che lei aveva detto che si trovava là sul porto di Genova, che doveva raggiungere 20 miglia, Sanremo, 20 miglia, doveva raggiungere questo zio, perché a Napoli aveva perso tutti i familiari. Tutti, sì. E questi qua, non lo so, invece di fucilarla, non lo so, ebbe fortuna, non lo so, oppure dovevano andare da quelle parti, se la portarono con loro nella camionetta e la accompagnarono a casa di questo zio, dove lei fece la scena madre raccontando che aveva perso a Napoli, avevano porti tutti sotto le macerie, eccetera, eccetera, eccetera, e le hanno creduto. Però ci sono diverse... Poi non l'ha raccontato non so per quanto tempo a quel poveretto dello zio. Non voleva rischiare. Per non metterlo in pericolo, certo, hai capito? Certo, guarda, ci sono diversi, adesso questa cosa che mi hai detto, no? Che lei fece la scena madre dicendo sono morti tutti i miei parenti, io sto qui per raggiungere uno zio, ci sono diverse anche altri passaggi, no? Nel libro in cui sembra che lei riesce, diciamo, a cavarsela usando proprio gli stereotipi che diciamo maschilisti, che sicuramente i nazisti avevano molto forti, diciamo, nella loro mentalità e nella loro testa. Lei riesce a usare gli stereotipi delle donne deboli, indifese, eccetera, eccetera, che i maschilisti tedeschi avevano sicuramente, no? Poi anche con quell'atteggiamento coloniale, i nemici, esseri inferiori, che insomma, così, quindi figuriamoci una nemica donna, ragazza giovane. Lei riesce a usare, no, questo gli stereotipi proprio a suo vantaggio per sopravvivere, come ha fatto la scena da madre. Poi quando si veste carina con la camicetta e la gonna per sembrare una ragazza che va a fare la spesa, invece ha un cesto pieno di bombe in mano, no? Ha avuto l'intelligenza proprio di usare a suo vantaggio anche questa immagine di donna insospettabile, come dire, non facilmente collegabile all'idea di una combattente, che era una donnina come tante altre, insomma. Certo, è stata intelligentissima, cioè una genialata, no? Fingersi, diciamo, una donna un po' spaesata, un po' smarrita, quando c'è il cesto di bombe in mano. Allora io vorrei chiudere, diciamo, questa nostra chiacchierata leggendo la dedica che tu mi hai fatto sul libro, che qualche 25 aprile fa, che secondo me è bellissima, perché dice la frase fondamentale con cui secondo me dobbiamo pensare e vivere il 25 aprile, la resistenza ora e sempre. Tu scrivi: affinché non si perda la memoria, la lotta partigiana continua. Buona battaglia, cara Demetra, perché io in radio mi chiamo Demetra. Ed è veramente molto bella, ed è proprio il senso, no? con cui viviamo l'idea della resistenza, che ovviamente non è solo il 25 aprile, non è solo questa data simbolica, con l'idea che è una dimensione a cui si appartiene, ci si posiziona dentro questa dimensione in maniera stabile e definitiva, e si cerca solo di farla diventare sempre più profonda e assoluta, come, diciamo, modo di stare al mondo. quindi non riguarda né il passato né il presente, cioè come certo. dire, è un assoluto che riguarda il passato, il presente e il futuro, è un modo di stare al mondo, quindi mi piace certo. molto. La lotta partigiana continua con questa certo. bellissima dedica. Allora ci salutiamo e con la promessa di ritornare a fare altre chiacchiere nelle nella nostra radio. Sarò ben felice di farlo e vi ringrazio di questo bel momento, perché parlare di mia mamma per me è sempre il massimo. Grazie, grazie. Grazie a te, grazie a te. A presto. Oh mamma mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao mamma mia. Oh che tormento, io ti invoco ogni domani ed ogni ora che qui passiamo. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ed ogni ora che qui passiamo noi perdiamo la gioventù. Ma verrà un giorno che tutte quante, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ma verrà un giorno tutte quante lavoreremo in libertà. Ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. Ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. Ok, ringraziamo ancora una volta Nella e Demetra. Il libro di cui parlano all'interno dell'intervista è La guerra di mamma, storia della partigiana Maddalena Cerasuolo, scritto da, appunto, da Nella Gaetana Morgese. Continuiamo con una storia di resistenza. Allora, io avevo chiesto a Loredana Rossi di darmi una mano per la radio e di raccontarmi storie e pratiche di resistenza. Alla fine Loredana non mi ha fatto soltanto da intervistata, ma anche da intervistatrice. Per chi non lo sapesse, Lori è una compagna, un'antifascista, una storica attivista e voce trans di Napoli, dell'ATN, Associazione Transessuale Napoli, a cui abbiamo chiesto di parlarci di pratiche di antifascismo dei femminili di Napoli. Lori ha poi a sua volta intervistato la Tarantina, un'icona di Napoli, dei quartieri spagnoli, l'ultimo femminillo di Napoli, e la Tarantina ci ha regalato diciamo un contributo prezioso su quello che per lei è la resistenza, quindi la sua vita ci ha riportato in una Napoli del post-guerra, ci ha raccontato la sua non accettazione da parte della famiglia, l'esclusione, gli anni in cui è arrivata a Napoli. E niente, ci racconta poi ovviamente delle retate, delle botte prese dalla polizia, della vita a Roma, dell'incontro con Pasolini, Moravia, tanto altro. E della Tarantina noi abbiamo un ricordo bellissimo legato ad un 8 marzo di 3 anni fa, in cui insieme a Loredana c'è lei che reggono lo striscione di apertura del corteo transfemminista. E noi speriamo davvero tanto di poter ritornare ad attraversare le strade insieme a loro. E ce le ascoltiamo per ribadire appunto un 25 aprile che sia effettivamente di resistenza, ma soprattutto che ci faccia pensare alla liberazione dalla violenza maschile, dalla cultura patriarcale, fascista, dal controllo dei corpi, dalla criminalizzazione dei corpi. E grazie. Buona festa a tutti e a tutto del 25 aprile, che ci ricorda la resistenza contro il nazifascista qua in Italia. E io vorrei ricordare che i femminili di Napoli furono i primi, insieme alle donne e gli uomini di questa città, a San Giovanniello, fecero le barricate contro i nazifascisti. Quindi noi siamo state, insieme al popolo napoletano, le prime a cacciare i nazisti da Napoli. e cacciare anche nelle fogne i fascisti. La giornata della Resistenza è una delle più belle giornate per tutti noi, perché è la liberazione. Io cosa devo dire sulla Resistenza? Io ormai ho una vita che faccio la mia Resistenza, ho 59 anni, la mia Resistenza è cominciata con il mio genere, la conoscenza del mio genere. E ho dovuto combattere contro la famiglia, contro la società, contro le istituzioni, contro tutti. Però io quel che volevo, quello sono stato, quindi la mia resistenza per me è andata bene. Però io ricordo un particolare di resistenza, e questa era nel 94, con il governo Berlusconi. Dal governo Berlusconi cominciarono a uscire la cacca delle fogne, cioè i fascisti, i nazi-skin. Io in quel periodo mi prostituivo e ricordo che ogni sera su tutti i posti di prostituzione alle donne non si toccava, ma solo alle trans, questo per farvi capire i fascisti di merda cosa sono, perché non dovevano toccare né trans, né donne, né nessuno, perché ognuno ha diritto di vivere la sua vita come lo vuole. Comunque io ricordo che tutte le sere in quel periodo c'erano 23-24 motorini con quattro macchine dietro nere, con 5 persone dentro e 6 persone dentro, quindi in tutti dovevano essere più di una sessantina di persone. Tutte le sere per 20 giorni andavano sul posto di prostituzione e picchiavano le trans con bastoni, con mazze, con ferri, con tutto quello che avevano, picchiavano le ragazze trans. Quando la ragazza trans si accasciava a terra dalle botte, le prendevano e lo sfregio che facevano di più le buttavano in un bidone di spazzatura. Da lì poi le trans venivano accompagnate all'ospedale e refettate. Venne il giorno che capitò sulla zona dove lavoravo anch'io. Quella sera vennero tutti come al solito, noi che facemmo scappammo, perché era un esercito, noi ne eravamo solo cinque in quella zona, in quel momento, quindi scappammo. Ma la sera dopo io, insieme alle trans di Napoli, raccolse tutte le trans che si prostituivano a Piazza Municipio, in Via Marina, alla Pirelli, alla Doganelli, le raccolse tutte. E il giorno dopo ci facemmo trovare tutti in macchina dietro alla marina, aspettando che arrivavano. Quando arrivarono, ricordo che noi, come si dice a Napoli, stemmo come pazzi, li volevamo prendere noi a loro, ci volevamo far conoscere noi a loro, questa era la violenza, e specialmente la violenza in Afmanella. Invece no, loro no. Noi facevamo, venite, venite, vi stiamo aspettando. Loro di fronte continuavano a camminare, accelerando. E da quella sera quei nazi skin di merda non ne abbiamo visto più. Questo ci fa capire quando questi fascisti devono restare nel loro habitat, cioè nella merda, perché sono vili, sono vigliacchi. È merda, è solo merda. E io finché sarò viva combatterò proprio per questo. Oggi come oggi è più appropriata. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Buona resistenza a tutti. Salve, come state? Ah, scusi, mi presento, sono Tarantina, voi mi conoscete, in arte però, mi chiamo Carmelo Cosma, ho 85 anni ragazzi. Niente, vorrei solo raccontarvi qualcosa forse di triste e un po' qualcosa di carino anche. Sai, io sono nato nel 36, quando c'era la guerra, e l'ho vista la guerra, perché poi la mia infanzia non è che è stata tanta brillante, capito? Io vengo da un piccolo paese della Puglia, a Vetrana, provincia di Taranto. Vivevo in questo piccolo paese, io, due sorelle e due fratelli. Mio padre era prigioniero in Albania, se non che, sai, era da poco finita la guerra, ero compiuto 10 anni. Si giocava nel più del meno in mezzo a una piccola piazzetta. In questa piazzetta c'erano due o tre uomini che, sa, discutevano tra di loro, più che altro di campagna, non lo so. E noi ragazzi, due o tre ragazzini che eravamo, giocavamo a nascondiglio. Io, uno parava e uno se l'altro si andava a nascondere. Io mi andavo a nascondere. Per nascondermi mi nascose dietro le gambe di questi uomini che parlavano in piazza, sai? Per aggrapparmi, mi aggrappai alle gambe di un uomo per nascondermi. Grappandomi, la mia mano andò a finire sull'uccello di quest'uomo. Però sai, era tutto indifferente. Ammetto però che io già ero affemminato e sembrava una femminuccia del paese. Tanto perché mi facevano i complimenti alle volte. Dice, Madonna, sembri proprio una guagliona, una bambina. Madonna, sembri proprio una femminuccia, sai, tutto questo. Però io, allora mica meno avevo quei sentimenti di approccio con l'uomo, avevo quella, come devo dirti, quella ingenuità, quella cosa di uno che non pensa di quello che può succedere nella vita. Niente. La parola un'altra è andata avanti, finché è andata a finire ai miei fratelli, a casa mia, è successo il pandemonio. Da quel giorno non ho avuto più pace, perché è stata una cosa tremenda per me. È successo che i miei fratelli mi hanno quasi ucciso di botte. Soprattutto mi gettarono via dalla casa e da quel giorno non ho potuto mettere più piedi. Allora ho cominciato a vivere in strada, mi dovevo adeguare, non sapendo, ero sbandato, ero perso le forze, non capivo niente, cosa mi stava succedendo, niente, sai, ero debole, non mangiavo, non bevevo, perché nel paese poi non c'era addirittura nemmeno l'acqua, c'erano delle piccole fontanine che aprivano verso le 4 o le 5 del pomeriggio e non mi potevo accostare perché c'era della gente. Era tremenda. Ho visto una vita che, malgrado tutto questo nel paese, qui che mi umiliavano, che mi buttavano della roba addosso, tutte queste cose, mi usavano violenza la notte. Ho subito del tutto. Dopo aver subito tante cose, tanti maltrattamenti, non mi reggevo in piedi, sai, violenti che subivo tutte le notti di questa gente, persino della polizia, dei carabinieri che c'erano in paese, perché all'epoca non c'era polizia, c'erano dei carabinieri che venivano da un piccolo paese di Manduria e durante la notte ne approfittavano pure loro a violentarmi, malgrado che mi violentarono mi davano tante quelle botte indescrivibili, niente, non ce la facevo più, non mi reggevo più in piedi, cercavo disperatamente la notte, strillavo per le strade, strillavo e la gente che non usciva, strillavo gridando che volevo mia madre, ma l'unica parola che mi era rimasta impressa che potevo dire solo ma, niente altro. Così piano piano con la disperazione mi misi in cammino non sapendo dove andare, arrivai a Manduria. Manduria è un altro piccolo paese, l'altro rifugio è una chiesa. Questo paese mi aiutò un poco, capito, ci racconta tutta la situazione. Da quel giorno questo paese è interessato in me, che piano piano mi ha cominciato a ristabilire la mia vita. Se non che lui decise di mandarmi a Taranto ho preso un lavoro come barbiere. Facendo questo lavoro di barbiere, conobbi un ragazzo, un marinaio che era di Napoli, però avevo compiuto 12 anni, se non che io, sai, il mio rapporto andava così di buon amico, mi voleva bene, lo volevo bene. Lui decise che lui si era congedato e doveva rientrare a Napoli. Io lo supplicai, tanto che lo supplicai di portarmi anche a me a Napoli. Lo convinse, in tal modo poi tante cose, tanti particolari, sono troppo lunghe da raccontare. Sono arrivato a Napoli. A Napoli ho stabilito, non so, un rapporto con la prostituzione, che poi un giorno decisi di andarmene via. Andai e me ne andai con un'altra mia amica a Roma. A Roma ho avuto una stabilità mia personale, perché poi a Roma io non so se ero carina, me lo dicevano che ero bella, non lo so, non voglio giudicarmi me stesso, sai? Avevo dei complimenti, non so che potevo rappresentare, se non che tramite un'altra persona che ho conosciuto a Roma, questa persona poi mi ha cominciato a presentare a tante persone e tra tutte queste persone chi erano? Era Fellini, Moravia, Pasolini, Frascati, questa persona che lui mi portò da queste persone era compresa Parisi, è stata una bella avventura. Sai, frequentavo queste persone con quella mia ingenuità. Sai, con la testa, diciamo, che io mi atteggiavo a quel tipo di ragazzina, e loro come se fossero, erano abbagliati di me, di queste cose, capito? E così è andata avanti. E poi col tempo, sai, la vita cambia, tutto cambia. Allora, a quei tempi io ho conosciuto anche una pittrice importante, che è diventata famosa col passare del tempo, perché posavo per lei nuda, e lei mi raffigurava con gli occhi di gatto, era Novella Parigini. Ho fatto tanto nella vita, sai, però non è che mi rendo conto. L'unico mio rimpianto è che io dei miei non ho più saputo niente, sono morti tutti quanti. L'unico rimpianto che mi fa a me, al paese mio, non sono tornato più. L'unico rimpianto che mi fa è quello di non aver visto prima madre. Sai, questo è il mio rammarico che mi dà tanta angoscia e tanto dolore che sento tutti i momenti. Solo questo. Poi il resto della vita voi lo sapete, quel che faccio, quel che non faccio. Insomma, la vita è quella che bisogna avere, una lotta continua. Poi, oggi come oggi, io lotto. Io e Loredana, perché Loredana è una grande ispiratrice, di una lottatrice, diciamo, una carta vincente, sono sicura, perché quello che lei fa è c'è da ammirare, perché è una lotta che fa per favorire quello che non può succedere agli altri, quello che mi è successo anche a me, perché poi queste cose ne è successo che ne è successo a tutti, non è solo a me, ma purtroppo c'è quei casi più leggeri e casi pesanti. Io mi auguro che queste cose non succedano più, che le famiglie accolgono i figli, quelle che siano, che non pensassero a stesso, che pensassero è figlio, è carne della sua carne e nient'altro. L'ipocrisia e l'ignoranza della gente che la mettessero da parte, perché non è giusto che condanno delle persone solo per il sesso, è inaudito. Io mi auguro a tutte le famiglie che loro accolgono con amore i figli e che li adorano di più degli altri quando fanno un caso del genere. Loredana, io ti ringrazio e so che sei una persona speciale che lotta con tutti la tua forza e mi fa ho un grande onore parlare con te. Mi fa piacere, ti voglio bene e spero che tutto questo si risolva al bene e non al male. In bocca al lupo a tutti. Un bacione. What? se chi ha mezzane core che pulì. Sarà di provare si putito e sanare con l'ucore si putito e l'ucore via fa voglia fare come si fa. Io non capisco che vuoi che succede a quel caduè, non si crede, non si crede. È nato una creatura, è nato mirio, accendo gramsci, sì signoro gramsci, se gira il vuoto, se, se. Siamo Loredana, ringraziamo la Tarantina e continuiamo con i contributi e le interviste. In questa giornata del 25 aprile ci sono stati già diversi fermi, compagni e compagni fermati, denunciati, a cui va sicuramente un nostro abbraccio solidale. Questa pandemia ha risvegliato, come dire, un sentimento diffuso di normalizzazione di abusi che stanno avvenendo, abusi diciamo che ci hanno portato a normalizzare delle pratiche di controllo e securitarie che non sono affatto normali. E pensiamo che appunto, cioè, ribadire la necessità di ripensare al 25 aprile sia anche quella di pensare al nostro ruolo e di ripartire da una capacità di riconoscere sempre le ingiustizie anche in queste nuove modalità in cui si presentano e che ci vengono appunto regalate da questa emergenza Covid. Siamo sì isolate, ci vogliono isolate, come dire, mettere in pratica forme di relazioni non è sicuramente facile. Però, come dire, non ci avranno mai sole. E sulle difficili condizioni che oggi vivono le donne, in particolare quelle migranti, in questa fase di emergenza sanitaria ce ne parla Yasmin e poi ascoltiamo Mimì che ci parla della quarantena, della assurdità ed anche, diciamo, di tutte le contraddizioni legate a questa fase 1, fase 2 dell'emergenza. Ribadisce insomma la questione e la problematica della delazione e insomma chi è che sta pagando questo prezzo alto di questa emergenza. Abbiamo chiesto ad alcune compagne che vivono un po' in giro per l'Italia e a Napoli di regalarci nelle loro lingue un brevissimo messaggio di resistenza. Ringraziamo Desa che l'ha fatto, Nedia, e ringraziamo la mamma di Nedia a cui va un grande abbraccio. 25 aprile per liberarci oggi e sempre dal fascismo, dal sessismo, ma anche e soprattutto dal razzismo, dallo sfruttamento e dal neocolonialismo. Un peggioramento delle condizioni di molte donne che utilizzavano quei pochi momenti di uscita per fare un corso d'italiano o per far fare una passeggiata ai figli, ed erano momenti in cui forse riuscivano a sfuggire non solo alle botte dei mariti, ma a ricostruire quei ponti con un mondo in particolare di donne che potesse in qualche modo rappresentare una possibilità di lotta in comune. È molto complicato e io non ho, chiaramente non dirò in questa sede le modalità con cui esistono e con cui manteniamo questi contatti, perché il timore è che poi se si viene troppo a sapere il modo, questi uomini carogna che le soggiogano continuamente, tra l'altro anche insieme alle loro comunità, particolarmente le comunità migranti, possano quindi togliergli anche quell'unica possibilità che hanno di comunicazione con l'esterno, che è una comunicazione all'esterno innocua, che serve ed è fondamentale per mantenere un contatto verso una via di fuga. cioè parliamo di donne che vengono picchiate regolarmente perché non assolvono a quelle che sono le esigenze dei mariti, in particolare magari non sono riuscite ad avere dei figli, come in un caso specifico, e non continuano a non riuscirvi, per cui non riescono a assolvere il ruolo interamente a cui sono destinate, non solo dal marito padrone, ma da un'intera comunità. Essere chiuse in casa significa spesso per queste donne reinteriorizzare un sentimento di colpa, che è quello che poi non le aiuta ad uscire dal dominio dell'uomo padrone, poiché non hanno più contatti con l'esterno, quindi sono colpevoli di non essere all'altezza, cioè di non rispondere all'esigenza di comunità e uomo padrone. Rileviamo tra l'altro in diverse occasioni che, a parte la violenza dei mariti, dei familiari e quindi della comunità, perché è una violenza di varia tipologia, una violenza quindi di comunità e una violenza diretta poi fisica da parte dei mariti, esiste poi la violenza di lavorativa, cioè di quelle donne che costrette a lavori di badantato a nero restano nelle case dei padroni proprietari, a questo punto anche della loro persona, e non riescono ad uscirne più perché sono tenute ad assolvere il loro lavoro. Talvolta vengono anche pagate, ovviamente, alcune addirittura hanno un contratto, ma non tornano ai propri affetti, ai propri amici, magari agli uniche persone a cui sfogavano le angherie che subiscono anche da questi fantomatici, queste fantomatiche famiglie benestanti che le sottopongono a costanti angherie. Allora, io ritengo che sia fondamentale che Nonnona di Meno abbia costruito questa rete di ascolto, e quindi si farà in modo e faremo in modo, in ogni modo possibile, perché ci sia questa diffusione attenta a che le donne riescano a contattare le persone che possono effettivamente ascoltare e dare loro un ponte d'uscita. In questo momento per noi risulta essere fondamentale che venga mantenuto il più possibile il contatto, aspettando quelli che sono i tempi di una donna vittima di violenza, che ha un tempo altro, e la persona non può in nessun modo, la persona che sta all'esterno, quindi in sicurezza e che si fa da presenza anche solo saltuaria o casuale nella vita di queste persone, di non rispondere ad una loro chiamata, che sia essa non venire, non venite questa volta, ci vediamo un'altra volta, o sia essa venite adesso. Ecco, dobbiamo essere in grado di rispondere prontamente a questi momenti di urgenza, perché combattere per se stesse, per una lotta, per una vittima di violenza, è la cosa più difficile che esiste, e quando si arriva a questo ci si libera dalla violenza. In tutto questo io mi auguro ovviamente che queste donne che genericamente ho citato siano quelle donne che il prima possibile possano raccontare direttamente da luogo protetto quello che sta loro accadendo. On n'est pas seul, nous résistons ensemble. Oi gente, eu gostaria de desejar um bom 25 de abril de luta em memória e respeito a todas as nossas companheiras e nossos companheiros partigiani. Dizer que a luta continua contra as novas formas de opressão e pela libertação da mulher e do homem negro. Um forte abraço. Il fatto è che siamo chiusi in casa da più di un mese, ma la maggior parte della gente di domande sembra che non se ne faccia. Lo vedi quando esci per strada, no? E ti porti il bambino appresso, e tutti ti guardano male, ti dicono che non dovresti farlo e che te lo dovresti riportare a casa, e i bambini non si portano in mezzo alla strada in questa situazione. Ma è come se non sapessero da dove arriva tutta la roba che comprano nei supermercati, nei negozi, come se non avessero proprio la percezione della realtà, che è una realtà nella quale le fabbriche stanno aperte, i magazzini della logistica stanno aperti, i lavoratori stanno andando a lavorare, chi è fortunato, perché chi non lo è e arrangiava giornata, a casa ci sta, ma ci sta senza potersi permettere di mettere un piatto a tavola a meno che non gli arrivi il pacco della spesa. Quindi è come se veramente non si rendessero conto del fatto che non c'è sta nessuna fase 1 e fase 2. Cioè, la fase 2 non è mai né cominciata né finita per chi organizza il sistema economico. La fase 2 c'è sempre stata, accompagnata dalla fase 1, nella quale tutto il resto della popolazione è stata chiusa in casa e terrorizzata, tanto da far diventare chiunque carabinieri di chiunque altro. E poi è come se la gente si aspettasse che tutta questa situazione debba finire per opera dello Spirito Santo, per qualche strana magia, come se, capito, il virus a un certo punto decida di andarsene. Ma qua non è Chernobyl 2, è un virus, è un organismo vivente, non sta a sentire quello che noi gli diciamo di fare o di non fare, non è determinabile. Quindi che cosa succederà dopo che ci sarà stata, diciamo, questa prima ondata? A settembre, ottobre, che cosa faremo? Una nuova quarantena? Quindi è assurdo che la maggior parte delle persone non si rendano conto che piuttosto di mettersi a fare i salva popolo, diciamo, dei de no antri con la baionetta puntata alla fronte, alla tempia di chi si porta il bambino a spasso a pisciare il cane o a farsi una passeggiata perché non ce la fa più a star chiuso dentro, dovrebbero iniziare tutti quanti a guardarsi in alto, non intorno, in alto, e a pretendere che la sanità funzioni veramente bene, perché se io sono un lavoratore e posso andare a fare, che cavolo ne so, le scocche della macchina dentro alla Fiat, o se posso andare a fare il corriere con i pacchi e lavorare, smistare i pacchi dentro un magazzino, azzeccato i miei colleghi facendolo in sicurezza, significa che io in sicurezza posso fare tutto il resto. Comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu et solide comme la terre. À la mémoire des notes, de nos galères et des potes, des coups de sang énormes, du poing sur les épaules, à la lumière de nos torts, de nos erreurs et des vôtres, à la folie de l'époque, à tous les fruits de nos révoltes, à nos rêves qui se vautrent, au monde qu'on nous a laissé. Dans les tripes de nos âmes blessées, aux notes qui s'endorment, la haine au ventre, nos rêves d'enfants, à l'air, aux formes, à fond. Voici que reviennent les sauvages, secouer ceux qui dorment dans leur cage dorée. Nous sommes venus briser aussitôt ce qu'on ne dompte pas, ce qui fait crier sur les toits. La liberté perdue, que la nature reprenne ses droits. Bene, mentre registriamo ci giungono notizie appunto di sanzioni e multe, e 15 giorni di quarantena fiduciaria punitiva e 400 euro di multa a chi sotto la questura aspettava il rilascio dei compagni presi, e compagne e compagni lì sotto distanziate con le mascherine e improvvisamente si sono ritrovate accerchiate, bloccate. Con la richiesta appunto di consegna dei documenti e adesso insomma in una situazione in cui si ritrovano ad attendere che con lentezza insomma vengano identificate e identificati uno ad uno. E ci avviciniamo insomma alla fine di questa puntata abbracciando appunto le compagne e compagni che si trovano lì e credo che questa situazione insomma non sia l'unica capitata in Italia qui a Napoli. L'ultima parte la dedichiamo, la chiudiamo con una lettera di Nicoletta Dosio e pensiamo che il 25 aprile di Resistenza e Liberazione non possa non prevedere un ricordo a lei, cioè più che un ricordo, la necessità di mettere al centro le sue parole, adesso che insomma si ritrova ancora con tutta una serie di restrizioni agli arresti, domiciliari. E quindi niente, abbiamo deciso di leggere questa sua lettera con un pensiero particolare alle detenute, alla brutalità del carcere e un pensiero particolare appunto che lei riserva a loro, e proprio per non dimenticarci, come già abbiamo ampiamente detto, di tutti quelli che sono gli abusi che puntualmente ci vengono ci vengono inflitti. E in questa giornata ne approfittiamo anche per insomma, mettere al centro una situazione abbastanza problematica, che è quella della sorveglianza speciale, un'eredità fascista a cui ci opponiamo fermamente e insomma, sostenendo Eddie, la compagna per cui il Tribunale di Torino ha emesso questo provvedimento che la sottopone appunto a 2 anni di sorveglianza speciale. Perché? Perché Eddie praticamente è andata a combattere nell'unità di difesa popolare a fianco delle milizie curde contro i salafiti dell'ISIS nella Siria del Nord. È una roba assurda contro cui appunto ci opponiamo, ma soprattutto sosteniamo la resistenza delle combattenti curde e dei curdi. E non potremmo mai, diciamo, sentirci ed essere libere finché soltanto una di noi non è libera. Quindi alle partigiane di tutto il mondo, alle partigiane di ieri, alle partigiane di oggi che continuano a resistere e si battono per la libertà, va il nostro pensiero. E, quindi niente, ci lasciamo con appunto la lettera di Nicoletta e, come di consueto, chiudiamo la trasmissione con la strommerda resistente. Ribadiamo ulteriormente come dire, una buona liberazione a tutti e a tutte, ieri partigiane, oggi e sempre antifasciste. 18 aprile 2020. Nicoletta Dosio. A che serve il carcere? Da questa esperienza una cosa l'ho imparata, che il fine esplicito ed istituzionale del carcere è quello di ridurre all'obbedienza cieca contro qualsiasi coscienza critica, ogni autonomia. A questo sono finalizzati lo stravolgimento dei tempi e degli spazi, l'arbitrarietà degli ordini, la sistematica repressione di ogni obiezione, la violenza psicologica e l'umiliazione delle perquisizioni corporali ogni volta che ti muovi, le battiture dei blindi nelle ore più improbabili, le celle buttate all'aria per cercare il nulla assoluto, l'obbligo di domandina scritta al direttore per le cose più ovvie, comprare gettoni per la lavatrice, ricaricare la scheda telefonica, mandare a casa oggetti o libri. La chiusura delle celle più volte nella giornata senza un preciso motivo, la prepotenza delle guardiane che negano o concedono a capocchia, il sentir chiamare Africa, India, Cina, le tue compagne dalle secondine che ne cancellano volutamente nome e cognome. Uno degli ultimi interfacci è stato con quella che ci teneva a sottolineare il suo grado. Si sente offesa? Da cosa? Parla con me come se fossimo fuori dal carcere. Qui le regole sono diverse. Le regole sono le loro, rispetto alle quali loro sono tutto e tu non sei niente. Solo se diventi un utile strumento puoi essere minimamente tenuto presente. Nel momento in cui sei pronta a chiamare le guardiane per risolvere un litigio con la tua compagna di cella o non hai problemi a dare informazioni su come si comportano e di che cosa parlano le attenzionate speciali, allora sei sulla buona strada, in gara per rientrare nella società civile. L'unico carcere accettabile è quello abolito. Giorni fa riflettevo con un acquario sul fatto che la debolezza comunicativa, unita a una grave assenza di bellezza, dovrebbe essere il mai più che ci promettiamo con il mignolino. Una saggia vergine poi affermava altrove la necessità di fare degli sforzi immaginativi per non ripetere lo stesso copione, perché oggi più che mai abbiamo delle cose importanti da dire e una grande potenza da dispiegare. Questa terza puntata cade in una giornata in cui sicuramente a chi mi sta ascoltando e a me stessa prudono le mani. Per questo 25 aprile, decisamente diverso da qualunque altro, propongo qualcosa di diverso dal mio storico programma astrofonico di ben 2 puntate. Qualcosa che sia un mix tra astri, tarocchi e I Ching, sul tema della liberazione da ciò che impedisce e limita, personalmente, nella lotta, nelle relazioni. E lo facciamo attraverso il tiraggio di una carta per ogni segno. iniziamo però a collocarci. La liberazione. Ne parla l'esagramma numero 40, Hi Xian, composto dall'eccitante, il tuono, e l'abissale, l'acqua. Un capricorno mi ha suggerito il doppio significato di questa parola, che è liberazione e perdita. Non c'è liberazione senza perdita. I Qing parlano di una fase di rapido mutamento in cui la liberazione non è ancora avvenuta, ma l'impedimento va eliminato. La liberazione qui è descritta come una pioggia che allenta ogni tensione e lava ogni cosa. La cosa importante, però, è riuscire ad avanzare oltre il necessario, oltre ciò che lava la cattiva coscienza, come direbbe un cancro. Allora eccoci qui con Novilunio che dal Toro, forza e talento, ci porta in Gemelli, leggerezza e cambiamento. Ariete. La luna. Caratteristica è la ricettività e il segreto. Qualcosa di te ti dà veramente fastidio, puoi però utilizzare la tua indescrivibile forza per nominarlo. Toro. La torre. Le cadute non sono necessariamente traumatiche, a volte fanno ridere. Non ci crederai, ma puoi assumerti il rischio dell'autoironia. Gemelli, il sole. Tu così ribelle e insofferente, puoi imparare a gustarti la gioia senza crearti motivi di inquietudine. Cancro, le stelle. Forse le Pleiadi o l'Orsa Maggiore. Ora le difficoltà e i contrasti te li puoi mettere alle spalle, ma ce la fai a non farti condizionare dai ricordi pesanti? Leone, gli amanti. La carta della scelta e dell'esitazione, quando tu invece ti lanci generosamente su tutto. Ma sai discernere tra ciò che desideri e ciò che ti lusinga? Vergine, l'appeso. Il sapere non si ottiene solo con la ricerca attiva, lo studio, la sperimentazione, ma anche rimanendo immobili e ricettivi. Tu lo sai, ovviamente. Ti affido il compito ambizioso di essere altro da te e di farmi sapere se ci sei riuscito. Bilancia, la ruota della fortuna. Il simbolo del continuo e immutabile divenire, e tu che ogni volta cerchi di ristabilire l'equilibrio. Puoi perderlo e non sentirti in colpa. Scorpione, l'eremita. È colui che ha imparato a dominare la sua mente addestrandola con la solitudine e la modestia. Impara a conoscerti, soprattutto in questo vuoto che a volte ti circonda. Sagittario, il matto. Irresponsabile e irrazionale, trascinato dagli impulsi, abbandona ogni convenienza per seguire il suo intuito, ma c'è sempre quella sensazione di autosabotaggio. Capricorno, il carro, il successo materiale senza contatto con il mondo spirituale. Non ti spieghi però un sacco di cose, potresti osservarle meglio scendendo dal carro. Acquario, il papa. Puoi imparare a sublimare il piacere. Puoi imparare a far incontrare gli opposti, puoi essere il signore degli anelli, però a volte anche pensare al proprio benessere può dare soddisfazioni. E infine, i pesci, il giudizio. È il momento della verità, quella che hai sulla punta della lingua. Vediamo se riesci a non tergiversare. Il sorriso dell'agente di polizia mentre mi controlla il cellulare. Il sorriso compiaciuto di chi mi ha già schedata, classificata. Forse è quello il ricordo costante, sensazione che mi torna quando sono in metro, mi sento osservata, o quando sto facendo sesso con un semisconosciuto che è già giunto alle sue conclusioni senza neanche chiedere. Polacchi, forse no, irlandesi, ma forse anche tedeschi. Mi chiedo le origini della famiglia di quest'uomo, forse terza o quarta generazione di una famiglia scappata. Dalla guerra, dalla fame, dalla povertà, o forse solo giunta all'inseguito a qualche strana coincidenza della vita. Chi mi siede davanti e sta guardando compiaciuto le foto che ho sul telefono, ha già perfettamente chiaro cosa ne sarà di me. Lo so perfino io dopo le 4 ore passate al centro immigrazione dell'aeroporto. Lui tornerà a casa felice, soddisfatto di aver cacciato dalla sua terra rigogliosa e ricca un'altra persona che non può e non deve appartenere al parco giochi del capitale. Io sono la preda e vengo cacciata. Il suo sguardo è aquile, il mio serpente, e non distorgo lo sguardo. Lui guarda il mio telefono, io guardo lui. Sta leggendo i miei messaggi, parole che forse capisce solo a metà, e quindi chiede aiuto al collega latino che lavora al computer al suo fianco. Gli chiede di tradurre cosa c'è scritto e già so cosa stanno pensando. E sa che è una puta, guarra, zorra. Chicago è la terra dove l'inglese è per i ricchi e lo spagnolo è per i poveri. Dove nella sala del ristorante dove servi le pizze con l'uovo sei enjoy your meal, mentre dietro le porte della cucina sei che cogna passato con essa carne. Io ero la mascotte che incuriosiva gli americani, la solitica italiana con la valigia di cartone giunta negli Stati Uniti per cercare fortuna. E questa storia piaceva molto, le mance non mentivano. Il mio corpo sudava e fluiva tra i tavoli, le braccia con i segni dei piatti troppo caldi delle pizze appena uscite dal forno. Chissà se quei due poliziotti erano stati clienti, se avevo servito la birra fredda, ghiacciata, versandola direttamente nel bicchiere, sorridendo con il mio accento lontano. In quell'attesa snervante penso a Natalia e al fatto che non la rivedrò mai più. Sua madre ha attraversato 7 volte il deserto del Nicaragua, 6 volte è stata arrestata. La 7ª volta è riuscita a partorire quella bambina dal lato giusto, in quella terra florida. La mia amica, la mia compagna, che dovrò chiamare al telefono della migrazione per dirle che ci rivedremo tra 5 anni forse, che mi mancherà, che mi manca già, mentre sono qui e mi danno una coperta di plastica per passare la notte mentre aspetto di essere rimandata in Italia, o forse in Messico, chissà. Natalia picchiata dal portoricano, Natalia che mi fa guidare mentre si contorce sul sedile posteriore. Le hanno appena asportato qualcosa dall'utero e la stanno riportando a casa nostra. Natalia che parla inglese meglio dello spagnolo, ma comunque mischia tutte le lingue e mi fa diventare pazza. Mi manca già il suo spanglish con qualche parola di napoletano. Mi mancherai, mio amor, diete estraño. Scappati di casa! Fai tarandel e facimmi le tarandel.